Beh, Deborah, fa il paio con il caso del 34enne, diversamente adolescente, insomma. Flavio, resista! Forza! Sì, allora... Sia uomo! Claudio Lomino ci sarebbe servito, però vabbè. Ma che magari, magari è un omone. Magari ce la Claudio, facciamo tutti, scusi, e due, via! Fiore al femminile, ma al maschile? Sì, sì, sì. Eccoci. No, è che il nome è più lungo e quindi l'ho abbreviato per semplicità. E che sarà, Fiorella? Fiorbellina. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. A prima o poi ripartirò e salirò, salirò, salirò, salirò, fra le rose di questo giardino. In questi giorni gli appassionati di mercati finanziari si staranno intrattenendo con le notizie che riguardano i conti societari, anche perché in teoria chi investe in borsa scegliendo singoli titoli dovrebbe farlo guardando anche ai cosiddetti fondamentali delle aziende. Il focus di questa settimana è sulle banche, che stanno salendo e non poco in borsa, proprio perché le big di Piazza Affari stanno comunicando al mercato come si è chiuso il 2013 e il panorama non sembra poi così terribile come temevamo. Insomma, le banche salgono. Un'occasione allora quella di oggi per commentare la situazione delle banche italiane e la reazione della borsa ai loro risultati, perché più o meno tutti siamo interessati al tema, anche solo come correntisti, se non siamo azionisti. E certo, e allora 800 24 00 24, se vi stuzzica il tema bancario, se una fetta dei vostri investimenti è in questo settore e se questa fetta negli ultimi anni si è continuamente ristretta ed allargata, qual è l'approccio giusto per investire in un settore così delicato e periodicamente preso di mira, aggiungo al quale è stata aggravata anche la tassazione proprio nelle ultime ore, cara Nicoletta? Ma senti Deborah, alla fine tanto vituperate, bastonate, contestate i conti delle banche, come vanno? Chiediamo a chissà. Sai che abbiamo scomodato? Lo so. Una bella firma del Sole 24 Ore, il collega Marco Ferrando, che salutiamo. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao Marco. Qua. In questi giorni Marco sta letteralmente facendo uno slalom tra una banca ed un'altra e ci scatta subito una polaroid sulla situazione. Marco, prima di andare alle storie più interessanti, come stanno complessivamente le banche di casa nostra? Perché anche a loro toccheranno gli esami targati Banca Centrale Europea. Conti a posto? Conti a posto, conti sotto stress, verrebbe da dire, mutuando anche in parte l'espressione dalla BCE, visto che sta per iniziare con gli stress test, che sono un po' dei, come dire, sicuramente dei temi che riguarda le banche adesso fino alla prossima estate. Le banche italiane stanno abbastanza bene alcune, abbastanza non si sa altre, nel senso che complessivamente la borsa va molto bene, questo perché, come dicevate anche voi prima, i titoli sono molto sottovalutati, hanno scesi molto negli anni scorsi, quindi gli investimenti sulle banche stanno salendo. Dal punto di vista della redditività, cioè le soddisfazioni che danno agli azionisti, in realtà non vanno benissimo, nel senso che alcune banche quest'anno daranno dividendo, altre lo daranno in azioni, altre non lo daranno, e molte altre invece faranno aumenti di capitale e quindi di fatto andranno a chiedere soldi ai loro azionisti. Quindi è un clima, come dire, una fotografia molto, molto contrastata. Ecco. Chi sta bene, chi sta benino, chi sta più o meno. E tra l'altro non ci dimentichiamo che c'è un impatto sui bilanci bancari anche dallo spread che è disceso nelle ultime settimane. Poi magari ci torniamo, andiamo però ai casi più importanti, perché più o meno siamo in molti di noi interessati alle sorti di due colossi del credito italiani. Unicredit e Monte dei Paschi. Tanto per dire, stamattina Unicredit guadagna quasi un punto a Piazza Affari, Monte dei Paschi più 2,33, anche se chi guadagna molto di più sono due titoli delle popolari, alle quali ti rimando magari in una domanda successiva. Monte dei Paschi ci ha fatto preoccupare molto lo scorso anno, a parte i conti Marco sta tentando di rimettere a posto appunto anche un'altra questione, quella dell'assetto azionario. Il principale azionista, che è la fondazione, deve scendere ancora molto dal capitale appunto di questo grande istituto di credito, deve vendere le sue quote. In questi giorni il titolo ha avuto anche in certe giornate delle vere e proprie fiammate. Come stanno le cose oggi sul Sole 24 Ore? Un'intervista all'amministratore delegato Fabrizio Viola. Ma sì, dunque, Montepaschi ha dato i conti del 2013 ieri, conti che sono ancora in pesante rosso, infatti ha chiuso con 1,5 miliardi di perdite, ma sono perdite dimezzate rispetto a quelle del 2012, quindi di fatto questa è stata presa come, diciamo, una buona notizia, diciamo che un po' la conferma del fatto che la cura, la terapia d'urto, la cura da cavallo che il binomio Viola Profumo ha messo a punto in qualche modo sta funzionando. Come dicevi, in realtà però il quadro rimane molto fluido, perché da un lato c'è questo percorso di risanamento e si spera rilancio che sta andando avanti, dall'altro c'è un aumento di capitale da 3 miliardi più di quanto capitalizza al momento la banca in borsa, quindi questo dà l'idea di quanto sarà, come dire, un rimescolamento delle carte dentro l'azionariato. Un aumento di capitale da 3 miliardi che doveva già essere chiuso in questi giorni, invece con l'assemblea straordinaria di fine dicembre è stato rinviato all'estate. Questo sta creando molta agitazione nell'azionariato, perché la fondazione, come dicevi, azionista storico, oggi appena sotto il 30%, piena di debiti, deve vendere, e a quanto pare ci sarebbero un po' di azionisti, in particolare fondi che sono un po' i soggetti che stanno investendo pesantemente sulle banche in questi giorni, pronti a sottoscrivere. Tutto questo fa sì che l'attenzione intorno al titolo sia molto alta. Settimana scorsa e veramente c'è stato un giorno, se ricordo bene era mercoledì, in cui il titolo ha fatto quasi più 20%, e sta ancora salendo molto, anche perché, come diciamo prima, Monte Paschi in particolare, bisogna dire, era sceso moltissimo, perché c'è l'aumento di capitale, rimescolamento in arrivo, un po' perché le cose dal punto di vista dei conti della banca stanno andando un pochino meglio, l'interesse c'è. Non dimentichiamo però, e questo l'hanno detto ieri i vertici, il dividendo sul Monte Paschi non ritornerà prima del 2016, certo. Quindi oggi fa veramente un investimento di medio periodo. Evidentemente la prima cosa che si fa, si taglia il premio agli azionisti. Un altro commento te lo chiedo, Marco, sui conti di Unicredit. Uno ascoltatore al 349-238-6666 osserva: le banche salgono soprattutto se annunciano licenziamenti, vedi Unicredit, la banca di Piazza Cordusio che oggi abbiamo fatto traslocare, anzi perché essa stessa si è spostata la sua sede appunto in Piazza Gaeolenti a Milano. I conti di una delle più grandi banche italiane sono in rosso per 14 miliardi, è una cifra spaventosa che è quasi pari a 3-4 leggi di stabilità. Com'è possibile, Marco, che siano arrivati a questo livello i conti di questa banca, che poi appunto lo vedremo invece in borsa è stata largamente premiata? Sì, beh, diciamo che dietro il bilancio di Unicredit presentato martedì, quindi siamo freschi anche di questi conti, c'è un po' una situazione tipica delle banche, in particolare italiane, che si trovano a pagare il prezzo della crisi economica. Crisi economica vuol dire crisi del credito, crediti che non tornano e quindi, come dire, linee che vanno declassificate, perché evidentemente un prestito che io ho fatto anni fa difficilmente mi tornerà, e questo mi porta, me banchiere, a evidentemente postare delle perdite, e così si spiegano in particolare queste pesanti rettifiche, questi accantonamenti fatti da Unicredit. Oggettivamente si temeva che ci fosse una manovra importante su questo fronte, nessuno aveva pensato che si arrivasse a 14 miliardi. La borsa ha reagito bene essenzialmente per 3 motivi. Il primo, perché comunque non ci sarà aumento di capitale, e questo, come dire, una buona notizia per gli azionisti, perché non devono mettere mano al portafoglio perlomeno a breve. Secondo, il tema che dicevi tu prima, dei tagli di personale, questa è una legge molto cinica del mercato, quando una banca, ma non solo una banca, anche qualunque società annuncia una riduzione dei costi fatta anche di riduzione del personale, la borsa è contenta, perché evidentemente ritiene che sia una delle poche certezze rispetto al ritorno alla redditività. Unicredit ha annunciato 8.000 esuberi nell'arco del piano, quindi da oggi al 2018, in buona parte in Italia, anche se loro hanno precisato saranno gestiti con i prepensionamenti, comunque questa è stata presa come una buona notizia dal mercato. Terzo elemento ritenuto positivo è il messaggio che un po' il management ha dato, cioè chiudiamo definitivamente i conti con il passato, vecchio delle operazioni magari un po' spericolate, acquisizioni, e passato recente e quindi del credito malato, adesso hanno detto tutti gli accantonamenti necessari, siamo pronti a ripartire. Non a caso loro per quest'anno, il 2014, prevedono un utile di quasi 3 miliardi. Diciamo, il mercato si è fidato. Perfetto. Però possiamo dire che il caso Unicredit manda un po' fuori di testa le borse. Tra l'altro, a proposito di testa, questa, come anticipato, è la settimana mondiale del cervello. Ne abbiamo parlato proprio venerdì scorso in una puntata che potete naturalmente riascoltare in podcast. E allora possiamo usare proprio questa puntata per continuare a parlare di cervello, per allenarlo anche, perché no, per nutrirlo adeguatamente. Ci aiuta oggi un allenamento allenatore d'eccezione, il professor Giovanni Scappagnini, che è medico e professore di biochimica all'Università di Molise. Buongiorno, professore. Buongiorno. Che cosa ci fa un neuroscienziato, un professore di biochimica, un medico in mezzo alle banche e alle azioni? Parla di una branca straordinaria delle neuroscienze che è la neuroeconomia. La neuroeconomia è stata una delle grosse evoluzioni della neuroscienza. Parlare di economia e cervello ha senso in un'ottica di meccanismi di scelta, di decisione. Allora, in qualche modo osservare i titoli che salgono e che scendono è anche un modo di allenare il nostro cervello. Tutto ciò che stimola il cervello è allenamento, e il cervello è un organo che, come un muscolo, va allenato quotidianamente per far sì che si mantenga in forma. Certo è che se sui titoli ho investito potrebbe essere anche un meccanismo che genera ansia. Comunque razionalità ed emozione sembrano essere strettamente unite nella proiezione cerebrale che è il mercato. Il mercato, non dimentichiamocelo, sembra un organo anch'esso, anzi un organismo autonomo, ma è comunque una proiezione dell'attività umana e del nostro cervello, e risente non solo di ragionamenti razionali ma anche di emozioni, e su questo si è fatta una scienza che è la neuroeconomia. Per fortuna che c'è Unicredit, se no come facevamo a parlare di questo col professor Scappagnini? Ma quante ne sappiamo. Tra l'altro, professor Scappagnini, lei dice, beh certo, se io ho investito, insomma, ansia, strizza, stress, ecco, tutto questo, noi sappiamo che al cervello lo stress piace, lo stress positivo, e non gli piace, come piace a noi, lo stress negativo. Ci sono che agiscono sul nostro cervello in modo assolutamente differente, ma molto interessante. Il concetto di stress spesso è un concetto sbagliato, lo identifichiamo immediatamente come un qualcosa di negativo. Lo stress che in qualche modo genera un adattamento, è sempre una cosa positiva. L'attività fisica, che fa benissimo a tutto l'organismo e anche al cervello, è uno stress. È vero. Da un punto di vista alimentare, molte sostanze che mangiamo sono nutrienti fondamentali, ma altre sono dei piccoli stress che inducono un adattamento molto positivo. Quindi un po' di stress è il sale della vita ed è uno dei meccanismi che fa stare bene il nostro organismo e anche il nostro cervello. Il cervello poi ama fare quello che gli piace, vero? Vorremmo tutti fare come lui, gli piace avere delle passioni, delle cose che lo rassicurano. E invece dobbiamo arginarlo qualche volta, contenerlo. Comunque, noi che dobbiamo fare oggi? Con un grande esperto, vogliamo allenare, tornare a parlare del nostro cervello, lo alleniamo, vedremo tutte le cose che gli fanno bene, ma soprattutto lo porteremo a tavola, perché abbiamo visto in questi anni, e il professor Scappagnini ce lo racconterà, che quello che mangiamo è fondamentale per la sua salute. Detto così, non è abbastanza PIL, ma professor Scappagnini, proprio quello che mettiamo in tavola arriva al nostro cervello ed è capace un po' di cambiarci testa e anche un po' vita. Siamo ciò che mangiamo, e questa è una frase banale, ma da un punto di vista cerebrale è veramente incredibilmente attuale. Il cervello è fatto di sostanze che per la maggior parte siamo costretti ad assimilare con il cibo, e se vengono a mancare il cervello ne soffre. A tavola c'è il principale investimento sulla gestione della qualità del nostro pensiero, quindi è un qualcosa sempre più sostenuto. Parlavamo prima di neuroeconomia, nuova branca della scienza, delle neuroscienze, beh anche le neuroscienze nutrizionali, che in America si chiamano nutritional neuroscience, quindi traduzione diretta, sono uno dei filoni più innovativi ma anche promettenti da un punto di vista della capacità di interferire sulla salute del nostro cervello. 800 24 00 24, il nostro centralino come sempre a disposizione. Saltate la barriera rosa e intanto diteci come vi allenate. Vi allenate con i numeri, leggendo il Sole 24 Ore, con le parole, magari vi state allenando con le parole proprio partecipando alla nostra iniziativa di Cuore, Denari e Vitali, di cui parleremo in chiusura di trasmissione. Deborah. Oppure fate la settimana enigmistica, perché le modalità per allenare il cervello possono andare anche oltre una banale lettura di un libro, dico io, se banale può essere. Ascoltate Cuore Denari, come ci scrive Rita: dopo una settimana di silenzio sento la vostra radio a Saus e Dulce, finalmente sono in autostrada e riascolto la vostra voce, Rita. E perché magnifica. Lei ha bisogno di Cuore Denari per allenare naturalmente la propria mente, non solo. Allora raccontateci anche, vi vogliamo stimolare anche su questo, come la vostra alimentazione, perché anche quella può essere, ce lo diceva molto bene il professor Scapagnini, protettiva per il cervello. Se magari fate degli errori, potremo proprio oggi fare gli aggiustamenti del caso. Tornerei solo rapidamente a Marco Ferrando per un'ultima domanda sul tema bancario. Per chi si allena con i numeri, Marco, quali notizie sul settore bancario consigliamo di tenere sotto controllo da qui ai prossimi mesi? Tu ci hai indicato gli aumenti di capitale che molte banche faranno, ma qualcuno sostiene che andremo incontro ad una stagione di consolidamento del settore bancario. Cosa vuol dire? Che alcuni istituti potrebbero anche aggregarsi per razionalizzare ulteriormente i propri conti e non solo. Quali potrebbero essere le protagoniste di queste operazioni? Beh sì, parlavate di cervello, diamo spazio anche al cuore, nel senso che potrebbero arrivare alcuni matrimoni, potrebbero arrivare alcuni matrimoni tra le banche, in realtà matrimoni non d'amore ma di interesse sicuramente, di interesse o di necessità, nel senso che parlavamo prima, accennavamo agli esami europei da cui potrebbero arrivare notizie non buone per tutti dal punto di vista ancora una volta del capitale, di lì la necessità di fare alcune aggregazioni. Ad esempio, tra le banche popolari sono tante in Italia, alcune sono più solide di altre, si parla appunto di possibili matrimoni, si è scritto, si è detto ad esempio della Popolare di Vicenza, di Banca, del Banco Popolare, che peraltro anch'esso alla vigilia di un aumento di capitale importante da 1,5 miliardi, ha già detto che lo fa anche per poter essere in grado nel caso di aggregare altre banche in difficoltà, quindi sicuramente questo è un tema da tenere, come dire, sul tratto insieme, permettetemi, non è una popolare ma è la prima banca italiana, Intesa San Paolo, che a fine mese farà il suo nuovo piano industriale, nuovo manager a capo che è Carlo Messina, arriverà il nuovo piano industriale, si capirà un po' dove vuole andare, a quali obiettivi punta Intesa, quindi anche questo sicuramente è un aspetto da non dimenticare. Grazie Marco, quindi Ferrando, matrimoni in vista anche tra le banche, dopo tutto è la confetti. Ma speriamo di sì, un matrimonio è sempre una buona notizia, chissà se anche per le borse sarà così. Il medico mi ha controllato, mi ha fatto tutte le analisi e mi ha tranquillizzato. Mi ha detto, dice, lo vede, l'elettroencefalogramma è piatto. Ah, vabbè, meno male, almeno questo. Però, a quanto pare, nell'attacco si è evidenziato che io qua in testa c'ho tipo una noce grande così, piccola, colore nocciola, che lui clinicamente l'ha chiamata cervello, può essere? Allora, lo vogliamo... Il professor Scapagnini ride perché sente Ficarra e Picone, che sono tra l'altro siciliani come noi. Quindi, assolutamente. Professore, noi oggi vogliamo proprio dedicare un po' la nostra attenzione a capire come possiamo nutrire il cervello. Abbiamo anticipato che la dieta può essere davvero determinante anche nella prevenzione di molte malattie, delle malattie neurodegenerative. E poi una dieta giusta aiuta il cervello a funzionare bene e quindi le sue funzioni cognitive rimangono belle, vivaci. Allora, io vorrei chiederle se ci dà un elenco di alcuni alimenti e noi chiediamo agli ascoltatori di riconoscere quelli che sono più importanti. Diciamo, dovete nell'elenco assegnare la medaglia d'oro e quella d'argento. Non è un trova l'intruso. Vogliamo, non so se il professore, vogliamo buttarci dentro un intruso proprio, ma... Mettiamo anche un intruso. Dai, allora, costruiamola così. Alla carte. Intanto io vi invito a chiamarci 800 24 00 24 a raccontarci anche quali sono gli alimenti che scegliete per tirare un po' sul cervello. Può essere, ad esempio, mi sento stanca, prendo il caffè, oppure mangio più frutta e verdura, oppure mangio pesce perché la mia mamma diceva che il fosforo fa venire intelligenti. Forse ci hanno dato il pesce sbagliato, dico io, no? Magari ci hanno dato troppe sogliolette. Comunque, professore, se lei è pronto, io segno l'elenco, così le segno a matita perché la mia memoria vacilla. Vediamo se poi Deborah se li ricorda a memoria. No, adesso scrivo pure le tesi. Andiamo. Allora, partiamo con lo sgombro. Sgombro. Ok. Uno. Uova. Uova. Spinaci. Anche sugli spinaci c'è parecchia leggenda. Certo, braccio di ferro e non solo. Olio di semi, mettiamo di girasole. Olio di semi di girasole. State segnando di lì? Girasole. Ok. Continuo? Sì. Frutti di bosco. Mirtillo per l'esattezza. Frutti di bosco, mirtillo. Ok. È una bella lista della spesa, Quindi cavolo cappuccio. Cavolo cappuccio. E lui non ha nessun appunto, eh? Cioè qua stiamo scrivendo solo noi, ma lui se le sta inventando. È evidente. Cavolo cappuccio, non mi ha messo un canolo siciliano. Era un intruso troppo semplice. I vincis grassi della mia mamma non li mettiamo, sono un po' troppo grassi. Ne vogliamo mettere ancora uno? Sono 3, 6, 7. Facciamo 7. Numero perfetto. Mettiamo ancora un alimento. Mettiamo la soia. La soia. Germogli di soia. Germogli. Allora, quindi ribadiamo cosa dobbiamo far fare agli ascoltatori. Devono fare dirci, il podio. Devono fare un podio, quindi medaglia d'oro e medaglia d'argento. Le facciamo solamente 2 di medaglie. E poi scegliere l'intruso. Maglia nera, esatto. La maglia nera, bravo. Allora, sono sgombro, uova, spinaci, olio di semi di girasole, frutti di bosco, ma... mirtillo. Cavolo cappuccio e la soia. E la soia, germogli. 800 24 00 24. Voi iniziate a chiamare, noi intanto andiamo a sentire queste borse, cosa fanno, vanno su e giù, un po' come le nostre funzioni cognitive. Leggo un messaggio di Clelia per un attimo, prima del mercato. Che cosa fa per allenare il suo cervello? Mi alleno con il sudoku diabolico e studiando tedesco, che è una specie di sudoku diabolico anche questo. Cuore e denari. Ah, Clifford Stan, nessun messaggio, vuol vedere? Sì, il mio cuore dice una cosa, il mio cervello ne dice un'altra, sai. Non è facile, no, mettere d'accordo cuore e cervello. Per me, cuore e cervello, i miei non si danno neanche del tu. E noi oggi alleniamo il cervello e così facendo alleniamo anche il nostro cuore. Tante volte abbiamo detto che sono due organi che sono uniti nella buona e nella cattiva sorte, ma adesso noi abbiamo deciso oggi di fare la spesa e di portare in tavola degli alimenti che al cervello piacciono. Lo aiutano a stare bene, a mantenersi sane e sono anche in grado di prevenire alcune malattie. Il professor Scapagnini, che abbiamo il piacere di avere qua in studio con noi, ha fatto un elenco di alimenti. Ve li rileggo: sgombro, uova, spinaci, olio di semi di girasole, frutti di bosco, in particolare mirtillo, cavolo cappuccio e germogli di soia. Tra questi dovete assegnare una medaglia d'oro, una medaglia d'argento e una maglia nera, quindi un alimento che è un intruso, non dobbiamo mettere nella nostra dieta. Ci stai quindi, Ci Deborah? Ci sto, certamente, sono a vostra totale disposizione. Intanto abbiamo i nostri ascoltatori, certo, che stanno intervenendo numerosissimi all'800 24 00 24. Continuate a farlo perché oggi proprio ci alleneremo con i temi di denari, un ottimo allenamento per il nostro cervello, ma nutriremo con i consigli di cuore il nostro cervello. La volatilità delle borse e dei titoli bancari degli ultimi anni ha allenato il nostro cervello non poco e soprattutto questa volatilità ha messo a dura prova i nervi di tutti. Tutti siamo clienti bancari e quindi è giusto interessarci allo stato di salute delle banche, anche se qualche volta questo stato di salute ci ha preoccupato, ma ce ne preoccupiamo adesso anche come materia di investimento. Allora io saluto e ringrazio per essere con noi Roberta Rossi, Money Expert, analista finanziario indipendente. Buongiorno dottoressa Rossi e benvenuta. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta, buongiorno. Ha fatto anche lei la graduatoria degli alimenti che abbiamo indicato? Io sono certa di sì, conoscendola. Sì. Chi vince? No, direi un po' tutti. Ah sì? Professor Scapagnini, la risposta non è soddisfacente. No, abbiamo bisogno di un vincitore e di una maglia nera. La lasciamo riflettere ancora un attimo. Allora torniamo su un terreno che le è più consono, che è quello dei mercati finanziari. Dicevamo banche, stato di salute, ce ne dobbiamo interessare perché siamo tutti clienti a vario titolo di una banca, più o meno soddisfatti, ma molti si approcciano al settore bancario anche come tema di investimento. Dottoressa Rossi, appunto, cosa pensa di questo settore in questo momento? Allora, lato investitori è un settore che sicuramente è stato riscoperto dal mercato. Qualche numero: se diciamo l'indice MSCI World è sotto dell'1% rispetto ai massimi, l'indice mondiale della borsa mondiale, chiamiamolo così, borse mondiali, il settore bancario europeo è ancora sotto del 67% rispetto ai propri massimi. E relativamente la borsa italiana è ancora sotto del 47% rispetto ai massimi toccati nel 2000. Quindi diciamo gli investitori in questo momento stanno scommettendo che questo spread, diciamo, rispetto ai massimi si possa ricucire, si possa colmare, e quindi è un settore che è tornato sicuramente in auge, non negli ultimi mesi ma nell'ultimo anno e mezzo. Quindi tutti, diciamo, gli analisti che hanno raccomandato di stare alla larga da questo settore, come tutti quelli che vedono sempre nero o sempre rosa, hanno, diciamo, fatto perdere delle occasioni sicuramente in questo senso. Quindi, nonostante sia tornato, diceva lei, in auge da un anno e mezzo, rispetto alla borsa mondiale il settore bancario è sotto del 60%, per cui qualche opzione, opportunità di investimento c'è, chiaramente andiamoli a cercare con un po' di grano salis, come si dice, Nicoletta, che dici? Si dice proprio così, il sale ci piace, mica tanto, no? Professor Scapagnini, cadono subito lì. Subito, che mi fate l'esame a quello che dico. Però se gli analisti finanziari ci dicono se le banche sono solide o no, noi possiamo, professor Scapagnini, testare il nostro cervello, le sue funzioni cognitive, memoria, attenzione, concentrazione, ne abbiamo parlato proprio venerdì scorso in occasione della puntata col professor Comi, perché noi lo sappiamo, del periodo up e down, salgono e scendono come i mercati, un po' nel corso della giornata e anche un po' nel corso della vita. E allora, anche in questo caso, prima di chiedere agli ascoltatori, intanto sono le 11:39, voi siete up o down? E secondo voi perché? Vi sentite un po' annebbiati? Vi siete svegliati da poco? Siete già stanchi? Avete letto l'estratto Conte e vi ha mandato... E vi ha mandato in tilt? Ditecelo, perché il professor Scapagnini, non si fanno diagnosi, ma sicuramente si danno preziosi consigli. 800 24 00 24. L'alimentazione, io scherzavo, dicevamo il fosforo rende intelligente, aiuta la memoria, ma che cosa sappiamo di certo sull'azione dell'alimentazione nelle varie, se esiste, cibi per ciascuna funzione cognitiva? È possibile? Sulle singole funzioni cognitive è un po' più complesso, ma sulla gestione della funzione cerebrale sicuramente gli ultimi 20 anni ci hanno dato delle informazioni preziosissime, informazioni che derivano sicuramente da studi sperimentali molto dettagliati, ma anche, come spesso fa la nutrizione, da osservazione sul campo. Studiare popolazioni che nella loro dieta favoriscono, prediligono un particolare alimento, e questo nel tempo rappresenta un vantaggio, come per esempio una scarsa incidenza di patologie degenerative come l'Alzheimer, è stato lo spunto per studi molto molto dettagliati che hanno portato a informazioni trasferibili a tutta la comunità. E do già una piccola indicazione sulla medaglia d'oro, perché sicuramente una categoria di grassi che nella realtà fanno parte del mondo vegetale, ma sono molto espressi nelle alghe e sono stati usati dal mondo marino, dai pesci, come rimedio per preservarsi dal freddo, e sono gli omega 3. Sembrano essere tra i cibi di cui siamo costretti ad assimilare, non siamo in grado di produrli, ne abbiamo bisogno, sono degli essenziali, i più utili per la qualità del nostro cervello. È un investimento reale in termini di mantenimento della giovinezza del cervello. Il cervello è fatto di grasso, e questa tipologia di grassi sicuramente è un cibo estremamente utile alle funzioni cognitive. 800 24 00 24. Professor Scapagnini, lei ha citato Alzheimer, una parola che individua proprio una malattia neurodegenerativa di cui si è parlato molto in questa settimana, di cui avevamo già anticipato venerdì, di questo test che attraverso un prelievo del sangue riesce a monitorare la situazione anche 3 anni prima dell'insorgenza della malattia. So che questo è un tema che ha interessato molti dei nostri ascoltatori che ci hanno scritto, ne parliamo tra poco, perché anche in questo caso la notizia va letta con gli occhi della ricerca e della scienza, e quindi senza arrivare a delle semplici banalizzazioni. Ne parliamo perché abbiamo tanti ascoltatori da sentire in linea. Deborah, sei d'accordo? Antonio, Patrizia, andiamo, Giovanna. Andiamo con Antonio che aspetta da un pochino, forse anche il primo ascoltatore che si è prenotato per intervenire stamattina. Antonio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io tra l'altro sono un collega, quindi sono sono un medico e volevo soltanto dare alcune piccole indicazioni su quelle che sono le strategie per allenare la mente in maniera molto semplice. Tra l'altro sono stato vostro ospite alcuni anni fa parlando di radicali liberi e invecchiamento, quindi torniamo sul bravo tema dell'invecchiamento. Bentornato. Una decina di anni fa, quindi ero molto più giovane, ma si parlava allora di radicali liberi come grossa novità per quanto riguarda il problema dello stress ossidativo e quindi dell'invecchiamento. Ma parlavamo di allenamento della mente, io vi porto un esempio molto semplice che tutti possono mettere in pratica, è quello di evitare agende, post-it e notebook, e cercare di tenere di sforzarsi di non scrivere per forza tutti quelli che saranno gli appuntamenti, anche i piccoli appuntamenti banali, la lista della spesa e quant'altro, perché questo allenamento io me lo sono imposto anni fa, non posseggo un'agenda, lavoro in numerosissimi studi e tengo tutto a mente, gli impegni della settimana o del mese, le telefonate che dovrò fare, e mi sono sforzato di farlo proprio per non essere più dipendente da un'agendina per ricordarmi i numeri di telefono. Quindi, Antonio ce la tira proprio, ce la alla donna di Denari lei non può dire che non si deve fare la lista della spesa, perché se no la facciamo, andiamo con un obiettivo, ci portiamo a casa il triplo delle cose che ci servono, quindi quella ce la lascio almeno, ecco. Quella ve la lascio, perché magari uno poi effettua la spesa all'ora di pranzo, quindi anche lo stomaco ci dà delle indicazioni un po' diverse da quelle che sarebbero le reali necessità. Però questo piccolo sforzo di non scrivere tutto, di cercare di ritenere. Senta Antonio, mi scusi, dottor Antonio, lei mi provoca. Allora, lei giustamente non scrivendo mai ha una memoria molto vivace, senza darci la soluzione della nostra medaglia d'oro, mi dica l'elenco degli alimenti che ha suggerito il professor Scapagnini, ma lei chiedo, dato che è uno allenato e così ci racconta, l'esatto sequenza degli alimenti, adesso, ce la facciamo? E qua la voglio adesso. Allora, qui la vuole, però qui l'esatta sequenza degli alimenti, ho dovuto spegnere la radio, non vi ho sentito, quindi gli alimenti non mi possono essere utili in questo peccato, momento. Peccato, non vale, però va bene, grazie ad Antonio. Grazie. Sei stato utile comunque. Grazie ad Antonio, che andiamo, però vedi, perché la memoria poi alla fine un po' vacilla. Ve lo ripeto. Non sapremo mai se ha spento la radio davvero. Ci crediamo. Sgombro, uova, spinaci, olio di semi di girasole, frutti di bosco, mirtilli, cavolo cappuccio, germogli di soia, 800 24 00 24. Oggi si mangia, cerchiamo di assecondare i desideri del nostro cervello, ma tra poco con il professor Scapagnini, dopo le informazioni sul traffico, parleremo di questo test dell'Alzheimer di cui abbiamo parlato tanto. Che cosa ci insegna e che cosa soprattutto insegna alla ricerca? Cuore e denari. Io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più. L'utilitaria. Eccoci tornati a Cuore Denari. Tra pochissimo il dottor Scapagnini ci farà un test per il nostro, cioè continueremo ad analizzare il test con il quale siamo partiti nel nostro programma. Noi adesso facciamo anche un bel test alla nostra banca per vedere se è la banca giusta per noi, ma con Roberta Rossi, la nostra consulente finanziaria. Ma stamattina vorremmo anche parlare, stiamo parlando anche di bilanci delle banche, perché abbiamo visto una reazione molto significativa in borsa. Dottoressa Rossi, abbiamo parlato prima anche con Marco Ferrando della situazione di UniCredit, che ha annunciato una ristrutturazione molto importante con addirittura 8.500 esuberi. Vorrei un attimo commentare un po' di messaggi che ci stanno arrivando, perché qualche ascoltatore dice: state brindando ai licenziamenti di migliaia di persone. Allora io vorrei dire che nessuno rimarrà in mezzo alla strada, perché queste ristrutturazioni bancarie sono molto ben condotte, direi, e sicuramente si passerà prevalentemente per la strada dei prepensionamenti, e tutti coloro che rimarranno a casa da qui al 2018, come ci ha raccontato prima Marco Ferrando, lo faranno con degli accompagnamenti che non metterà assolutamente nessuno in difficoltà. Quindi non si tratta di mettere da oggi a domani, dottoressa Rossi, 8.500 persone a casa. Mi pare che su questo siamo tutti d'accordo, no? Assolutamente sì. Ecco, allora, senta un po', la banca è giusta per noi. Come facciamo a metterla sotto scacco con tre domande chiave? Allora, gamma prodotti, quindi che la banca non offra solo i prodotti della casa. Questo è particolarmente importante relativamente all'offerta di fondi di anche società di gestione diverse. Seconda cosa, commissioni. Se noi consideriamo un investimento di 50.000 euro su un titolo con una commissione del 2 per 1000, andiamo a pagare 100 euro. Mm. Nel caso di un investimento di 100.000 euro con il 2 per 1000 andiamo a pagare 200 euro, quando ci sono delle banche online che applicano commissioni flat di 20 euro per operazione. Flat che cosa significa? Omnicomprensive su tutta l'operazione? Indipendenti dal capitale investito. Ah, okay. Quindi anche uno che investe tranche di 50, 100, 200 mila euro non paga più di 20 euro per operazione. Questo su capitali importanti, io mi occupo di gestione di patrimoni, è sicuramente un elemento molto interessante. Quindi uno, attenzione ai prodotti della casa; due, attenzione a tutta la questione commissionale; terzo, servizio al cliente, quindi professionalità degli interlocutori con cui ci troviamo a parlare, e soprattutto anche qualità della piattaforma, del servizio, quindi anche efficienza proprio operativa. Questi sono degli elementi che possono fare la differenza. Mm-hmm. Mentre invece in Italia, diciamo, prevale più il concetto di familismo, di vicinanza anche geografica sì. allo sportello, che sono elementi assolutamente nocivi per prendere scelte così importanti per i propri soldi. Un'ultima domanda, poi la lasciamo. Le chiedo, visto che abbiamo parlato tanto di banche, se lei ritiene che in un portafoglio investito e ben differenziato ha senso avere una porzioncina di titoli bancari che, da quello che ci ha detto lei, potrebbero ancora crescere in maniera significativa in borsa. E poi, secondo lei, che impatto avrà sui nostri investimenti la nuova stretta fiscale sulle rendite finanziarie che ieri il Premier Renzi ha promesso appunto di varare? Dal 20 allora, al 26%. Sulla porzione di diciamo titoli bancari. Di titoli bancari in portafoglio, bisogna sempre, secondo me, fare una distinzione tra banche e banche. Dando un po' di numeri, per esempio, banche come Unicredit, di cui si è parlato, sono ancora sotto del 77% rispetto ai massimi, per non parlare di Monte dei Paschi, che sono sotto ancora del 93%. Mentre ci sono banche su cui noi abbiamo investito in questi anni che sono molto più vicine a ritornare massimi. Sui massimi, come Azimut, che è solo sotto del 6%, oppure Banca Ifis del 2,69%. Mm. Quindi diciamo che bisogna sempre poi fare una distinzione tra banche e banche. Questo è molto importante, più che dire metto un settore perché in questo momento è da tenere. Bisogna poi fare una selezione dei titoli molto attenta. Per quanto riguarda invece la tassazione delle rendite finanziarie, beh, innanzitutto questo aumento della tassazione è una notizia che non è molto corretta, nel senso che, come ha sottolineato Ursino nel vostro collega di Plus, la tassazione delle rendite finanziarie oggi in Italia è ben superiore al 20%, perché la distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi non permette un recupero corretto delle minusvalenze e una compensazione reale con... Ma è una questione adesso un po' complicata che non ce la facciamo ad affrontare. Sul tema di attualità stretto, dottoressa Rossi, cosa ne pensa? Beh, io sono assolutamente contraria perché è già molto più alto. Esatto, anche perché con le mini patrimoniali. Corretto, però sarà uno stimolo, diciamo, per i risparmiatori, per andare alla ricerca sempre di investimenti più interessanti, più redditizi, visto che i costi di questi investimenti sono aumentati. 30 secondi per la domanda di Patrizia da Trento, domanda che deve essere appunto telegrafica. Patrizia, buongiorno. Buongiorno, io volevo sapere, ho delle azioni della Banca di Trento Bolzano qui di Trento, che è una banca intesa, che sono in grandissima perdita. Mi hanno consigliato di venderle. Allora, Patrizia, la fermo subito. Qua è una trasmissione diversa. Noi su suggerimenti di questo tipo così drastici non ne possiamo dare, perché altrimenti arriva l'ufficio legale del Sole 24 Ore e mi manda a casa. Detto questo, basta. Purtroppo dobbiamo essere un poi po' maleducati. Portarti le arance. No, vendere e acquistare niente. Purtroppo niente. Magari ci scriva in privato e vediamo se riusciamo a trovarle un consulente che le dà un una indirizzo mano più preciso. E allora, noi adesso siamo quasi pronti per dare la linea al nostro GR. vi anticipo che nella seconda e ultima parte della trasmissione il professor Scapagnini risponderà a tutte le vostre domande. Scioglieremo un po' la riserva su questi alimenti, gli alimenti, la maglia d'oro, la maglia d'argento, la maglia nera. Ma professor Scapagnini, la nostra esperta invitava come a leggere con attenzione tutto lo scenario di borse e mercati. Anche noi dobbiamo imparare a leggere con attenzione le notizie che arrivano riguardo a studi, ad esempio come quello dell'Alzheimer. Ce li spiega? Qual è il messaggio chiave che può arrivare alla persona comune come me? Beh, innanzitutto è molto importante leggere dietro le notizie, perché spesso le notizie dell'ultima ora della ricerca creano maggiori aspettative di quelle che realmente poi sono trasferibili. Però in una notizia come questa c'è solo del bene, perché sapere in anticipo in questo momento può sembrare addirittura una condanna, perché non c'è una vera terapia per l'Alzheimer, ma questa è l'unica strada per cercare di interferire in maniera molto mirata sull'insorgenza della patologia. In questo momento l'Alzheimer è difficilmente affrontabile anche da un punto di vista prospettico, farmacologicamente. Sapere di essere ad alto rischio è un vantaggio, è paradossale dirlo, ma sarà un grosso vantaggio, perché il test ancora non è disponibile, ma probabilmente fra un po' lo sarà. L'altro aspetto interessante è quali sono gli elementi che vengono studiati come marcatori, no, di predittività negativa, e guarda caso sono dei grassi, sono dei metaboliti del metabolismo dei grassi, che danno anche quindi un'indicazione su dove andare ad operare per aggiustare o cercare di aggiustare quello che non funziona in un cervello che si sta avviando verso un processo terribile che è la demenza. E di grassi buoni, di grassi che piacciono al cervello. Di grassi buoni parleremo nel corso della seconda parte della trasmissione. Voi continuate a chiamare 800 24 0024. Io saluto Roberta Rossi, a tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati insieme in questa ultima parte, prima di parlare dell'iniziativa Cuore Denari Vitali, che vi ha costretto a scrivere un racconto a quattro mani con Andrea Vitali. Anche questo è un buon modo, professor Scapagnini, per tenere allenato il cervello. Andiamo a capire che cosa mettiamo nel piatto e riprendiamo quindi la lista della spesa del professor Scapagnini. Giovanna da Modena ci ha chiamato all'800 24 0024 per raccontarci a chi ha assegnato la maglia d'oro, a chi la maglia d'argento e a chi la maglia nera. Vediamo se hai indovinato. Giovanna, buongiorno. Buongiorno a voi, un abbraccio ad Antonella e alla Deborah. Grande Giovanna, qua non ci ricordiamo i nomi, eh? Come? Non ci ricordiamo i nomi, eh? Deborah Rosciani. E? Nicoletta Carbone. Ah, eccoci. No, l'ha salutata come Antonella, ma noi siamo due perfide e subito l'abbiamo fatto notare. No, stiamo scherzando, Giovanna, con grande affetto. Devo dire che sono 50 anni che sono a Maranello, ma sono di origine siciliana. Ah, bene, quindi è un po' gioca in casa con me il professor Scapagnini. Allora, Giovanna, con tutte queste credenziali, vada a raccontarci come ha distribuito gli alimenti del professor Scapagnini, che ci racconterà poi che cosa sta dietro a queste scelte. Allora, io dicevo, per primo lo sgombro, sì, con medaglia oro, perché è un pesce azzurro e perché è un pesce un po' grasso, quindi gli omega 3 andrebbero bene. Va bene. Poi io metterei dei frutti di bosco, il mirtillo soprattutto, come medaglia d'argento, perché favorisce una microcircolazione. Sì. E poi come intruso io metterei l'olio di girasole, perché preferisco l'olio extravergine d'oliva. Vedi, Giovanna, ma che soddisfazione mi dà, ci dà, vero? Perché io vi ascolto sempre. Ecco, vede ma poi Giovanna. Sono nella sua pratica quotidiana, nelle sue scelte alimentari quotidiane, è rispettosa così alla lettera, esattamente come ha azzeccato il nostro test, Giovanna? Sì, mangio mangio pesce, pochissima carne, e bevo il mirtillo e mangio molte verdure. Professor Scapagnini, insomma, la dieta ideale, grazie a Giovanna, per il nostro cervello, per spegnere quella che voi oggi chiamate infiammazione, è così? L'infiammazione è un fenomeno biologico molto utile, perché è diciamo, il processo che ci difende dagli attacchi esterni, soprattutto quelli infettivi. Però il nostro organismo deve essere bravo non solo ad accendere l'infiammazione, che spesso appunto simboleggiamo col fuoco, ma anche a spegnerla. E purtroppo l'invecchiamento spesso coincide con la incapacità graduale ma progressiva di spegnere l'infiammazione. Il concetto di un'infiammazione silente, crescente, è sempre più collegata alle patologie croniche dell'invecchiamento, incluse quelle cerebrali. L'Alzheimer, che è una malattia multifattoriale, tremenda, che ha sicuramente una base genetica importante, ha comunque come punto di arrivo una perdita di controllo dei processi infiammatori e un accumulo di danno ossidativo che dipende dall'infiammazione costante. Ecco, quindi poter spegnere l'infiammazione è tema che a tavola si tratta abbastanza bene, e medaglia d'oro e medaglia d'argento, quindi lo sgombro che simboleggia un pesce del Mediterraneo ricco in omega 3, come ha giustamente detto la nostra ascoltatrice siciliana Giovanna, rappresenta uno dei modi più interessanti nel quotidiano per regolare le capacità di spegnere l'infiammazione. Pensate, gli omega 3, una volta assunti, diciamo, sono essenziali, sono grassi di cui abbiamo bisogno, ma per capirci, un quinto del peso del nostro cervello è fatto da omega 3, quindi non ce n'è bisogno di poco. Perché il nostro cervello è una palla di grasso, diciamoglielo senza che lui si offenda. Sì, ma è un grasso buono. Certo. Però l'aspetto diciamo rilevante di queste sostanze, ormai in biologia, in scienza, non si chiamano più neanche, il termine tecnico sarebbero eicosanoidi, che poi sono prostaglandine, si chiamano resolvine, cioè quello che deriva dall'attività degli omega 3 biologicamente nel nostro organismo, ormai si chiamano resolvine, proprio dal concetto di risolvere i processi infiammatori. Quindi ormai non si parla più di altro, si parla di resolvine. Pensa, Deborah, a me piacerebbe essere una resolvina. Ma tu lo sei, anche tu. Tutti i giorni qua ci mettiamo lì, quale cosa facciamo domani, cosa approfondiamo per Cuore e Denari, e track che in 10 minuti siamo due belle resolvine, altro che. Quindi pesce azzurro, piccolo pesce del Mediterraneo, molto ricco in omega 3 e poco inquinato, sicuramente è una scelta ideale da un punto di vista alimentare a tavola. Secondo posto i mirtilli, perché e i frutti di bosco, ma un'alternativa altrettanto interessante sarebbero le arance rosse sicule, visto che veniamo da lì, perché sono ricche di sostanze chiamate polifenoli, che sono sostanze contenute nei vegetali, sono quelle che danno il colore rosso o blu, che hanno una caratteristica rispetto ad altri polifenoli contenuti in molte altre piante: sono molto biodisponibili, vuol dire li assorbiamo molto facilmente e vanno molto facilmente dentro il cervello. L'Università di Harvard, un professore che si chiama Joseph di cognome, ha studiato negli ultimi 20 anni l'effetto estremamente positivo dei frutti di bosco, in particolar modo di alcuni frutti di bosco, il mirtillo o anche frutti esotici come il maki che viene dal Cile, sulla qualità delle funzioni cognitive. Dai. È un modo, una strategia non sempre facile da ottenere, perché avere ogni giorno a tavola frutti di bosco non la considero, ma già con le arance rosse è un po' più semplice. Bene, questo aiuta moltissimo a preservare la giovinezza del nostro cervello, a ridurre aspetti collegati a infiammazione e stress ossidativo che si riflettono sulla capacità di mantenere memoria e funzione. E meno male che c'è questa infiammazione, così noi possiamo avere il professor Scapagnini qua in studio, perché è proprio qua a Milano per partecipare a un grandissimo evento che vede riuniti i massimi esperti internazionali, il GOTA direi, della nutrizione, che studia nutrizione. Ne abbiamo parlato anche di recente. Sì, un congresso internazionale che si chiama Science in Nutrition, ogni 2 anni all'incirca viene organizzato, diciamo organizzato la Fondazione Sorbini, ma raccoglie realmente il massimo, il GOTA, come dicevi giustamente, della nutrizione mondiale. Il padrino dell'evento è il professor David Jenkins, che è colui che ha scoperto l'indice glicemico, professore di Toronto, ha fatto realmente la storia della nutrizione moderna. Sono già pronta per andare dal fruttivendolo, guarda, quasi ti lascio. No, e vado. No, fermati qua, perché abbiamo Pierpaolo che ci chiama da Bologna. Buongiorno Pierpaolo. Lui buongiorno. Dice che per la memoria fa come un personal computer. In che senso, Pierpaolo? Allora, nel senso che per quanto riguarda il lavoro, io a differenza dell'ascoltatore precedente devo assolutamente tenere con me un'agenda, in quanto più che altro per un discorso etico, perché odio, io sono un artigiano e io personalmente da cliente odio quando mi tirano i bidoni. Bravo. Di conseguenza io ogni volta di telefonata potrò ricevere 20 appuntamenti, 10 al giorno, e me li segno, ma questo diciamo non fa parte della telefonata. La telefonata invece riguarda la parte ludica, la sfera affettiva, cioè il resto della vita che non è lavoro. Ecco, io in questa sfera, sia affettiva, ludica, amicale, tutto quanto, uso un sistema del computer, cioè quando faccio cose che mi interessano e che voglio ricordare, praticamente prendo un secondo dopo che mi succede la cosa o che mi viene raccontata la cosa e dico: questa cosa la devo memorizzare. Quando non faccio questo, diciamo, questo pensiero all'interno del cervello, vuol dire che quella cosa non mi interessa ricordarla. La butta perché via. Ho notato con gli anni che cercando di ricordare, chi cerca di ricordare tutto è proprio che poi non si ricorda più niente. Certo. Una cosa, per esempio, che ho eliminato negli anni è cercare di ricordarmi i numeri di telefono, perché secondo me il nostro cervello ha comunque, tra virgolette, una capienza. E cercando di sforzarlo troppo rischiamo di scordarci cose più importanti o ludiche, perché lo spazio, come dice Pierpaolo, insomma, professore, grazie Pierpaolo, è quello. È una buona strategia quella di Pierpaolo? Diciamo che le tecniche della memoria sono molte, sicuramente sì. L'attenzione all'evento è uno degli elementi che maggiormente rafforza il ricordo, e quindi sicuramente il rinforzo di una decisione di ricordare aiuta il ricordo. Concordo tra le altre cose sul discorso dell'agendina, perché a parte che coinvolge un errore non solo la propria memoria ma eventualmente appunto un impegno nei confronti di terzi, e quindi eticamente certo, assolutamente corretto, ritengo che la sicurezza e quindi la mancanza di ansia sia un elemento altrettanto importante da preservare nella gestione della salute del nostro cervello. Non viviamo di sola memoria, ma anche di tono emozioni, dell'umore, emozioni, che fanno parte assolutamente della fisiologia del cervello. Quindi avere comunque una serie di appunti da sicurezza, se non è, come dire, un incentivo a mantenere la memoria, sicuramente aiuta la tranquillità, e questo lo considero un elemento importante. Allenare il cervello con strategie mnemoniche è abbastanza efficace, uno strumento che è stato, come dire, sviscerato. Esistono addirittura degli allenamenti specifici in tal senso. Diceva uno dei miei maestri, il professor Govoni, tra l'altro neuroscienziato di Pavia, che basta imparare poche frasi di una poesia a memoria al giorno, forse è una cosa anche più carina poi, da un punto di vista di allenamento. Da domani, tutte le mattine, quando ti vedo, ti dico un verso di una poesia diversa. Va bene, ti io piace? Ti dedico lo spread tutti i giorni, ma questo mio allenamento invece, professor Scapagnini, tutti i giorni, da un sacco di anni, raccontare ad ogni ora la borsa, i mercati finanziari, a guardare questi tracciati che sembrano degli encefalogramma, come lo vede come mio allenamento personale? Torniamo al discorso di prima. Se è visto dall'esterno è un modo per stimolare sia visivamente che culturalmente quotidianamente il cervello. Nella serie contenta te. Sì, se uno è coinvolto, diciamo, potrebbe generare parecchia ansia. No, io sono solo una osservatrice, diciamo, distaccata. Allora, anche guardare i risultati delle partite potrebbe essere un altro modo. Mi devo mettere la che squadra è? Io tifo Napoli, non so se sì. Allora, ci sono invece molti ascoltatori che, approfittando della presenza del professor Scapagnini, ci raccontano che cosa fanno, che cosa mangiano, che cosa assumono per mantenere il cervello bello vivace. Lo sgombro sta veramente ingombrando delle ricette, sta ingombrando il nostro, esatto, i nostri messaggi. Fresco in scatola, lesso al forno un po' meno. Ricordiamoci una cosa: in generale la parte interessante del pesce, che non è il fosforo, come ci dicevano le nostre mamme, ma sono gli omega 3, sono grassi che tendenzialmente possono ossidare. L'ideale è il pesce fresco, sempre il pesce fresco, e l'ideale è il pesce diciamo piccolo azzurro. Senta, a chi non piace il pesce, e sono in tanti ascoltatori che dicono: io il pesce lo detesto, mio figlio non riesco a farglielo mangiare, allora questi benedetti omega 3, dove li prendo? Dove li pesco? Pesco, giusto? Diciamo, gli omega 3 sono assolutamente, rientrano nel mondo degli integratori alimentari, sono tra quelli più qualificati. L'Europa, anche formalmente, la comunità europea ha affidato agli omega 3 un claim, vuol dire un'indicazione salutistica, che diciamo si divide in varie voci, ma sicuramente mantenimento della salute del sistema cardiovascolare e delle funzioni cerebrali, quindi della fisiologia del cervello, sono le più rilevanti. La terza è sull'occhio, ma l'occhio è inteso sempre come parte del sistema nervoso, perché il nervo ottico e la retina sono fatte della stessa materia del cervello. Questi omega 3 e anche i polifenoli, ha senso prendere, iniziare ad assumerli magari come sotto forma di integratore in una particolare fase della vita? Si possono invece diciamo che si dovrebbero assumere sempre con l'alimentazione, poi nei casi specifici il medico ci dice magari di integrare. Se ci riferiamo a studi effettuati su larga fetta della popolazione, gli studi hanno interessato tutte le fasi dell'età. Noi pensiamo che per esempio il pesce è la migliore fonte alimentare di omega 3 a catena lunga, che sono quelli che servono al cervello e al cuore. Beh, è un piccolo errore da un punto di vista nutrizionale. L'alimento col maggior quantitativo di omega 3 è il latte del seno materno dell'uomo. Perché? Ma è semplice, perché il cervello del bambino in pochi mesi di allattamento deve crescere velocissimamente e la materia di cui è fatto il cervello sono gli omega 3. Cioè, quindi questo per far capire che in qualsiasi fase della vita questa la devi dire a tua sorella immediatamente. E allora? Allora noi dobbiamo, sono le 12:22 e dobbiamo aprire il nostro spazio di Cuore Denari Vitali. Giannino da Firenze non lo sentiamo. Giannino, non l'ho visto. No, Gianni, sì, dai, è lì che aspetta da un po', sta facendo questa cura di fosforo e quindi intanto gli chiediamo perché. Gianni, buongiorno. Buongiorno, mi fa piacere che vi consultate. Io sono una persona di 76 anni, sono un piccolo imprenditore, per ragioni di lavoro da tantissimi anni giro il mondo, specialmente in Asia, quindi non ho possibilità di fare scelte di pesce o di cibo, mangio quello che trovo. E quindi mi porto da ultimamente delle boccette di fosforo che prendo in farmacia. Ma scelta così? Già due mesi e mezzo. Scusi, ma c'ho un po' di ritorno e non vi sento bene. La salutiamo Gianni, perché adesso abbiamo anche Cuore, Denari e Vitali. La scelta del fosforo, professor Scapagnini? Un po' banale, nel senso che il fosforo sicuramente è un elemento molto rilevante, perché è uno dei gruppi chimici che serve a fare l'energia utilizzabile alla nostra biochimica, l'ATP, cioè c'è un gruppo fosforico. Però il fosforo veramente lo prendiamo da quasi tutti gli alimenti. Io mi concentrerei su essenziali un po' meno presenti nella dieta quotidiana, i polifenoli come le antocianine che abbiamo detto prima e sicuramente gli omega 3. Allora andiamo al nostro appuntamento settimanale con la scrittura. Iniziamo a sentire il primo incipit che poi dovrebbe darvi il là per completare il racconto scritto a quattro mani con Andrea Vitali. E andiamo e poi diciamo chi abbiamo selezionato dei racconti della scorsa settimana. Cominciamo con l'incipit di Cuore. Il mondo parallelo della genetica offre una varietà di casi interessanti, molti dei quali finiscono sulle scrivanie degli avvocati, i quali, è noto, non lavorano solo per la gloria. Questa è forse una delle ragioni per cui i matrimoni civili o religiosi sono in calo, mentre aumentano sempre più le coppie che convivono senza stipular contratti. Il caso in oggetto, tuttavia, esula da complicazioni forensi o altro. Semmai può richiedere una competenza genetica, ma attenzione, poiché le cose non sempre sono come sembrano ed è facile cascare nel tranello. Capitò infatti che un giovanotto salì all'altare per unirsi alla sua bella e nel giro di poco più di un anno si ritrovò padre di due figli. A chi gli chiedeva cosa potesse essere successo, raccontava che... Qual è la parola di cuore da inserire nel completamento? Ho pensato a polifenoli. Ah, questa me la voglio sentire tutta. Chissà che cosa si inventeranno gli ascoltatori. Andiamo, letto direttamente dal nostro Andrea Vitali, all'incipit di Denari, appunto. Nel mondo parallelo del denaro, un uomo che del denaro aveva fatto la religione della propria vita si trovò un bel giorno di fronte ad Atropo, che stava oliando la sua forbice. «Cosa fai?» chiese lui. «Tu piuttosto», ribatté la parca, «cosa hai mai fatto in vita?» L'uomo ribatté che aveva accumulato ricchezze inestimabili, facendo affari con tutti, senza guardare in faccia a nessuno, guidato sempre solo dalla sete di ricchezza, dalla necessità di accumulare denaro e di conseguenza potere. «Quindi è così che hai trascorso il tuo tempo?» chiese Atropo. «Il tempo, mia cara», rispose lui, «è denaro». «Ah, è così. Allora dimmi, quanto denaro hai in tasca adesso?» E l'uomo, infilandosi una mano in tasca, rispose: E rendiamo il lavoro particolarmente difficile questa settimana ai nostri ascoltatori, perché nel completamento del racconto di denari devono inserire la parola trimestrale. Guarda cosa come abbiamo sono mangiato per essere così perfide oggi. Il professor Scapagnini se la ride sotto i baffi, che ha anche la barba. E salutiamo i migliori scrittori della scorsa settimana, che ne dici? Assolutamente sì. Per il racconto di denari abbiamo scelto il racconto di Adriano, per i racconti di cuore abbiamo scelto il racconto di Danila, che saranno contattati appunto dal nostro, dalla nostra organizzazione per ricevere in casa la Smartbox. E poi naturalmente voi potrete leggere i loro racconti sulla pagina di Cuore Denari. Professor Scapagnini, si tolga il camice da medico e ricercatore e indossi la penna dello scrittore, afferri la penna dello scrittore. Un'indicazione rapidissima per il racconto di cuore e una per il racconto di denari. Consigli d'autore. Lo stimolo è sulla genetica. Sì. La parola chiave sono i polifenoli, che in qualche modo hanno a che fare con i nostri geni. Quindi la parola accessoria nel mio punto di vista, ma questo mantengo il camice in questo caso, è la nutrigenomica, la possibilità di interferire sui nostri geni anche su capacità riproduttive, visto che ci spostiamo in un campo quasi fantascientifico. Quindi orientatevi su quel campo lì. Sì. Mentre per la parola per il racconto di denari? Niente, la borsa, le trimestrali proprio. La trimestrale la vedo veramente veramente dura. Allora la dobbiamo invitare di nuovo, così arriva. Però il tema è intrigante, perché io credo che se il tempo è denaro, come diceva ella, il denaro non necessariamente compra il tempo, e il tempo alla fine è quello che ci serve diciamo per essere coscienti. Hai visto che poi una piccola perla finale ce l'ha regalata? A presto, a domani. A domani. Grazie al professor Scapagnini. Buona giornata a tutti.